Io mi domando spesso di voi come siate riuscita ad inventarvi. Non avevo scelta, vero? Sono una donna. Le donne sono obbligate ad essere molto più abili degli uomini. Potete guastarci la reputazione e la vita solo con poche parole bene scelte. Quindi è chiaro che io non ho dovuto inventare solo me stessa, ma espedienti di fuga cui nessuno aveva mai pensato. E ci sono riuscita perché io ho sempre saputo di essere nata per dominare il vostro sesso e per vendicare il mio. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. L'incontro con questa signora è stato fondamentale per la mia vita perché ha forgiato in me la capacità di capire qual è l'animo femminile e quello che poi ho applicato nella vita. Alle 20:59 ero sotto casa sua, vestito perfettamente ma senza eliminare quell'aria un po' selvaggia. Sonai e Marco scese, anche lui tirato a festa. Storie di eleganti signore svizzere e di inappetenza, in una puntata tutta dedicata al vizio della lussuria. Credo di non avere mai parlato così tanto di sesso alle 3 del pomeriggio in vita mia come da quando stiamo raccontando storie legate ai nuovi vizi capitali. Queste linee d'ombra ve le raccontiamo davvero tutti i giorni alle 15, dalle 15 alle 16. Se avete voglia di condividere con noi una vostra storia, proprio come ha fatto Silvano, che è il protagonista, l'autore della storia che stiamo per raccontarvi, lineedombra@radio24.it. Una storia della vostra vita, un episodio della vostra vita che dica qualcosa di voi e che stia lì al confine, sulla linea d'ombra, in mezzo a quei vizi capitali, quelli antichi e quelli nuovi che stiamo trovando grazie alle vostre storie e che illuminino un pochettino quella zona nascosta di ognuno di noi. Non so a quanti Silvano, a quante persone Silvano abbia raccontato la storia che ci ha raccontato. Sicuramente è una storia che risale a moltissimi anni fa ed è una storia che probabilmente nella sua vita tiene serbata in un angolo, un po' perché, come ci ha detto e come ci dirà più avanti, gli ha insegnato moltissimo e quindi evidentemente ha lasciato un segno nella sua vita, soprattutto la protagonista della storia che ci racconterà, e un po' perché forse appunto la racconti solo a certe persone, solo in certi frangenti. Tra l'altro c'è da dire che noi maschi, quando raccontiamo le nostre avventure sentimentali o peggio sessuali, ecco, quando ci ascoltiamo dobbiamo sempre farci un po' la tara l'un l'altro, no? Tra amici, anche tra non amici, anzi soprattutto tra persone che non sono particolarmente amiche. Se c'è qualcuno che ammicca e che racconta qualcosa, sappiamo che bisogna sempre diminuire di un tot, no? Bisogna sempre diminuire un pochettino il racconto, perché quel racconto di solito tende ad essere, a avere a che fare più con la superbia che con la lussuria, a cercare di darsi delle arie che sono un pochettino più ampie di quanto in realtà non siano le arie che ci girano intorno o che facciamo noi stessi a noi stessi. E qualche tempo fa c'era arrivata una storia, erano anni fa, era una storia che raccontava di questo giovane ragazzo che andava il giorno di Natale, andava a trovare una sua compagna di classe con cui aveva una piccola tresca, ma nulla di che viveva da sola perché i genitori erano separati, quindi lei paradossalmente passava il giorno di Natale, il pomeriggio del giorno di Natale, da sola, e gli diceva: vieni a trovarmi che sono da sola e porta un amico. La storia si intitolava Porta un amico, e lui si metteva d'accordo con un amico che però il giorno di Natale, al pomeriggio, dopo pranzo, andava lì, suonava e dava forfè perché era appena finito il pranzo natalizio. Diceva: guarda, ricordo che diceva si vedeva ancora il maglione nuovo appena tolto dal pacco natalizio, e questo gli diceva: guarda, mi dispiace ma non ce la faccio. E lui va da solo a casa di questa ragazza e trova la ragazza e la sua amica nel letto. Lui non ci raccontava oltre, non andava oltre, diceva semplicemente: mi spogliai e rimasi in calzini, e alla fine tenni i calzini per tutto il pomeriggio. Questa è la storia che ci aveva raccontato, quindi lui non aveva esagerato nel raccontarci, aveva addirittura fatto un passo indietro. Nella storia che ci racconta Silvano invece non c'è la parte, diciamo così, prettamente fisica, ma c'è tutta la preparazione ad un incontro che è veramente fuori dal comune e direi che appartiene probabilmente a un'altra epoca. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Il mio nome è Silvano, ma sin dall'elementare tutti mi chiamano dottore. Sarà perché quando frequentavo la quarta elementare un giorno ho trovato una valigetta 24 ore. Ci ho messo dentro i libri e i quaderni e ci andavo a scuola. Sicuramente non mi chiamano così per il fatto che ho varcato la soglia della statale di Milano, ma questo a voi dirà poco. Vivendo a Luino, la vita scorreva tranquillamente, essendo una località dormitorio in inverno e molto turistica in estate, dove signore di molti paesi esteri amavano villeggiare nelle seconde case. Per noi ragazzi era normale abitudine frequentare sia le signore e soprattutto le figlie. Ed io potevo conoscere usi e costumi di quel mondo che ancora poco conoscevo. Avevo circa 17 anni e di soldi, malgrado i lavori svolti, ne giravano davvero pochi. Allora ero un ragazzo con un fisico atletico, muscoloso ma non palestrato, con la pelle bianca, leggermente abbronzata dal sole, biondo, capelli lunghi che davano quell'aria del selvaggio, però sempre puliti e ordinati. Occhi di azzurro vivo, passo sicura, testa sempre alta, non avevo paura di niente. Un giorno, mentre si chiacchierava in riva al lago, Marco mi disse a bassa voce: «Silvano, sai che a Gordola, che sta in Svizzera, c'è un locale, si chiama La Rotonda, dove tu ti siedi, fai finta di nulla, chiacchieri disinvoltamente e, se piaci, arriva il cameriere con una coppa di champagne o solo spumante, ma non fa nulla, e ti dice: Monsieur, Madame le offre una coppa. Tu giri appena il collo, solo quel tanto che ti permette di vedere da chi arriva quel dono, e se gradisci la signora, prendi e alzi la coppa in suo onore con un gesto di ringraziamento, altrimenti rifiuti». E io quindi chiesi: «E questo per cosa? Per bere un bicchiere gratis?» «Ma no», rispose Marco stupito, «se tu alzi il calice vuol dire che la signora è di tuo gradimento, e quindi...» «E quindi», chiesi io, «quindi ti alzi, vai verso il suo tavolo e le chiedi: posso, madame?» E lei ti fa accomodare. Marco era mio compagno di scuola, che arrivava dalla Germania, era come se fosse un mio fratello, per cui ci raccontavamo tutto, condividevamo tutto, abbiamo anche dormito assieme quando siamo stati in altri posti fuori di casa, per cui persona come se fosse il mio braccio destro. «Sì, ma quanti anni hanno queste signore?» chiesi io. «Ma che ti importa?» rispose Marco. «50, magari 55, ma che problema hai? E poi devi sapere che se ti siedi ti dà 100 franchi». «Beh, allora la cosa si fa interessante», risposi io. E poi decidi tu, a tuo libero arbitrio. E qui ognuno di noi è diverso e ci si gioca le proprie abilità come uomo e soprattutto come conquistatore», mi disse. Io lasciai cadere il discorso e per molto tempo non ne riparlai, ma dentro di me la curiosità era fortissima. Quindi un bel giorno presi Marco in disparte e gli chiesi: «Ma Marco, era vera quella proposta che mi hai fatto 2 mesi fa?» Lui cadde dalle nuvole. «Quale?» chiese. «Quella di andare a Gordola dalle signore». «Ah, certo che è vera», mi disse. «Ma chi te l'ha ridetto?» «Me l'ha detto Frank, sai, il mio amico tedesco». Chiunque abbia a quei tempi fatto parte della Luino bene conosceva Frank. Frank girava in Jaguar, cappotto di lana e guanti. «Lui ci va 2 volte a settimana. E quando ci va che fa?» chiesi io. «Fa quello che fanno un uomo e una donna. Non fare l'ingenuo che non lo sei». «Ok, e per 100 franchi?» dissi io. No, mi rispose lui. «I 100 franchi sono per sederti e passare una serata piacevole. Il resto è a parte». Io lasciai passare qualche giorno, poi venerdì dissi: «Marco, andiamo». «Andiamo dove?» rispose. «A Gordola, dove altrimenti?» Lui si mise a ridere e mi disse: «Dici sul serio?» «Sì, per le 21 passo da te e andiamo». Alle 20:50 ero sotto casa sua, vestito perfettamente, come appena uscito da un salone di bellezza, ma senza eliminare quell'aria un po' selvaggia che avevo. Suonai e Marco scese, anche lui tirato a festa. Salì sulla moto e via, si va a Gordola. Passammo la frontiera senza che nemmeno ci chiedessero i documenti. La mia curiosità cresceva man mano che diminuivano i chilometri mancanti. Marco dietro mi diceva delle cose, ridacchiava. E poi, alla fine, arrivammo. Yeah. Il locale non era un granché rispetto a quelli di Milano. Entrammo, ci sedemmo ad un tavolino guardandoci in giro per capire come funzionasse. C'erano dei divanetti con il classico tavolino al centro, dove sedevano prevalentemente gruppetti di signore, poi dei tavolini attorno alla pista dove stavano i ragazzi. A un certo punto vidi Frank, che si alza e viene verso di noi. «Ciao, che fate qua?» disse, e noi sorridendo: «Sai, ci hanno detto che si possono fare un po' di soldi qui». Lui si mise a ridere. «Quindi non sapete come funziona?» disse. «No». «Ok, vi spiego due cose prima che facciate stronzate e vi mettiate nei casini». Frank aveva la fama del Don Giovanni, sui 35 anni, sempre elegantissimo, bella macchina, raffinato. Ora cominciava a capire dove prendesse quei soldi. Ci spiegò esattamente il funzionamento, cosa fare e soprattutto cosa non fare mai, ovvero innamorarsi. A me sembrò la cosa più facile da rispettare, ma come tutte le cose che prendo alla leggera, poi tanto facili non sono. Comunque ci presentò a due signore che con molta gentilezza ci tennero compagnia per un po', in modo che prendessimo confidenza col locale e con le regole non scritte. Poi si alzarono e uscirono. Eravamo rimasti io e Marco, con il locale pieno di gente che chiacchierava, ballava e si divertiva. Ogni tanto qualcuno spariva. Così cominciamo a frequentare il locale molto spesso, a frequentare un po' di signore, sino a che un bel giorno arriva il solito cameriere e mi dice: «Un calice?» Io mi giro e una signora con i capelli rosso mogano, occhi verdi, statuaria, che sicuramente non passa inosservata, mi sorride e alza di un centimetro la sua coppa. Mi sono fatto prima di allora almeno tra le 20 e le 25 volte, incontrando le signore che frequentavano questo ambiente, e questa signora ha detto che aveva notato come io mi comportavo con le altre signore e aveva deciso di contattarmi, mettiamolo in questo modo. Era una signora alta circa 1,80, rossa di capelli, fisico abbastanza atletico, magro, una bellissima signora. Marco mi dà un calcio alla caviglia, sorride e bisbigliando dice: «Hai fatto colpo». Non mi sembrava vero, quella signora elegantissima aveva invitato proprio me. Mi giro e Frank, che era seduto in fondo al locale, mi fa un cenno con la mano e sorride. Io sono imbarazzato e fremo, come paralizzato per qualche secondo. Poi prendo tutto il coraggio. Lentamente mi alzo, con la coppa in mano, e vado verso la signora. Giunto al tavolo, non faccio nemmeno in tempo ad aprire bocca, che lei dice: «Accomodati». Era molto elegante, leggermente profumata, manicuratissima, pelle vellutata, sguardo sicuro. Indossava un abito lungo, molto attillato, nero, doveva costare una fortuna. Emanava un fascino particolare. Non avevo mai provato una sensazione del genere, quasi che il mio sesto senso mi mettesse in guardia. «Posso veramente?» chiesi. «Ma certo, ti ho invitato io, accomodati», mi disse. Trascorremmo tutta la serata a chiacchierare su come si comportavano gli altri frequentatori del locale, sia le signore sia i ragazzi. In un lampo fu mattina. Non me ne ero reso conto di quanto veloce scorre il tempo quando sei felice e vorresti fermarlo, in modo che quell'esperienza duri per l'eternità. Da allora ci frequentammo per circa 2 intensissimi anni. E la cosa veramente importante è che fu un master di vita per me. L'esperienza con quella signora è stata la scuola più importante della mia esistenza, e senza quella splendida donna, molto difficilmente avrei imparato tanto. Ladies and gentlemen, we are proud to present the one and only Miss Amanda Lear. Let me entertain you. Let me make you smile. Let me do a few tricks, some old and some new tricks. I'm very versatile. If you're real good, I'll make you feel good. I want your spirits to climb. So let me entertain you. Let me do a few tricks. you're more than some new tricks. I'm very versatile. And if you're real good, I'll make you feel good. I want your spirit to climb. So let me entertain you. E la scelta di Luca Micheli di farci suonare Amanda Lear ci riporta un po' in quell'atmosfera da club degli anni 70, immagino, dal racconto di Silvano, se non un pochettino prima, che dal Lago Maggiore va verso la Svizzera per incontrare, come le chiama lui, le signore. Pronto, ciao Silvano, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. So che tra l'altro sei in Svizzera in questo momento. Esattamente. Ma perché vivi lì oppure continui no, a vivere? No, per lavoro, solo per lavoro. Tu continui a vivere a Luino, Silvano? Esattamente, vado e vengo da Luino, sì. Dove, chi ti ammazza? Si sta benissimo a Luino. Ci sono delle cose molto piacevoli ed è abbastanza tranquillo come vita, Silvano, anche se ho di più la movimentazione. Silvano, di che epoca stiamo parlando? A quando risalgono queste storie? Anni 70? Sono 77-78. Esiste ancora quel locale, che tu sappia? Penso proprio di sì, mi pare proprio di sì, cambiate le usanze ma il locale c'è ancora. Senti, visto che ogni tanto, appunto, soprattutto per certe storie, qualcuno me lo chiede, te lo ridomando, ma la storia è chiaramente tutta vera, nel senso che tutto quello che ci racconti è accaduto. Sì, sì, non l'ho mai raccontato a nessuno perché fa parte dei racconti del dottore, che è un dossier che parla di 40 anni, più di 40 anni di vita. I racconti del dottore è un racconto tuo, sei tu il dottore? Sì, certo, ovviamente. Ah, ok, perché te appunto ti chiamavano il dottore, come dicevi in apertura. Senti, in che modo vi siete frequentati tu e quella signora? Nei fine settimana, ogni saltuariamente, oppure avete avuto una relazione vera e propria? C'era all'inizio saltuariamente e si parlava più che altro di metodi di comportamento nell'attività lavorativa. Dopodiché c'è stato invece anche un rapporto vero e proprio. In che senso, perdonami, metodo di comportamento, nel senso che lei faceva un lavoro e poteva aiutarti? No, ti ho spiegato, accennato a che tipo di lavoro si svolgeva all'interno di quell'ambiente. Ah, ok, per cioè lei ti aiutava, okay, ti aiutava a comportarti come si doveva per fare più soldi possibile, dico bene? Sì, come più che fare soldi, l'importante era essere qualcuno ed essere considerato, non dico il migliore, ma fai migliore. Tu puoi, insomma, puoi tranquillamente dire di aver fatto il gigolò in una certa parte della tua vita oppure troppo? No, è così. È così? Ah, ok, a tutti gli effetti. Sì. Tra i 20, quanti ne avevi, scusami, ricordamelo? Tra i 18 e 24, 25. Con quanti, immagino che tu non abbia mai fatto il calcolo di quanti soldi hai guadagnato, o magari sì, sei uno di quelli che tiene foglio Excel. Non esiste proprio. Non mi esiste. Sono divertito... Per me i soldi non sono mai stati importanti, perché come vanno vengono, e l'importante è che diano felicità alla tua vita. Per me i soldi sono un mezzo, non un fine. Perché hai deciso di smettere? Perché ho conosciuto delle persone più importanti e perché finché sono single sono il più grande libertino, quando sono con una persona sono il più fedele che esista al mondo. E la signora l'hai più rivista, l'hai più risentita, no? No, perché lei è andata all'estero e io poi per quello ho conosciuto altre persone e fatto altre scelte nella vita. Senti, tu che, se è possibile, cosa hai fatto poi nella vita? Che tipo di lavoro? Non voglio sapere il lavoro specifico, però che, diciamo, in che direzione sei andato? In due direzioni, uno nell'ambiente di produzione biodinamica e l'altro nelle costruzioni di case in biodilizia e finiture ambientative. E se dovessi dire, poi davvero ti saluto Silvano, ti lascio andare, se dovessi dire qual è l'insegnamento più importante che ti ha dato questa donna rispetto al comprendere le donne? No, è proprio guardare negli occhi una donna e capire che cosa la donna vuole, usare il polso d'acciaio con un guanto di velluto. Ammazza. E non sbagliare una mossa perché sei perso. Silvano, grazie mille, in bocca al lupo per tutto, a presto. Tanti auguri a te, ciao. Al tuo programma e a tutti gli assistenti. Grazie, ciao, grazie. ciao. Quante volte ascoltando le nostre storie ti è capitato di pensare anche io ho vissuto una cosa simile? anch'io ho una storia da raccontare. Ecco, se ti è accaduto, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un vizio capitale, uno dei 7 antichi o uno dei nuovi vizi, quelli in cui incappiamo ogni giorno nel corso delle nostre giornate. E poi spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Si raccontano storie di lussuria in questa puntata di Linee d'ombra, una lussuria consumata, un po' come è stato il caso di Silvano con la prima storia, e anche lussuria non consumata, lussuria che va, anzi, quasi appassendo nella storia che stiamo per raccontare. È una storia che ha raccontato Joyce Wadler. Joyce Wadler è una giornalista, una reporter del New York Times, è anche una scrittrice e ha una rubrica sul New York Times, si intitola I Was Misinformed, cioè ero male informata, in cui in modo anche molto divertente affronta degli argomenti che hanno a che fare con la vita delle persone che stanno attorno alla sua fascia di età, parliamo di 60-70 anni, quelli che lei chiama appunto i baby boomer. In questo racconto che ci fa, lei parla di quella che chiama e definisce una penuria sessuale che ha a che fare proprio con le persone che hanno la sua età, ripeto, tra i 60 e i 70 anni. Inizia così: sono single, quindi passo un sacco di tempo pensando al sesso. Una bella differenza rispetto a 40 anni fa, quando di anni ne avevo poco più di 20 e il sesso passavo un sacco di tempo a farlo. Ne avrete di certo già sentito parlare, ma negli anni 70 a New York c'era una quantità enorme di sesso a disposizione. Bastava allungare una mano e servirsi, per cui dire «Salve signorina, l'ho vista passare per strada, mi chiedevo se le va di fare sesso». «No, grazie», rispondevo, «gentile signore, grazie mille». Al momento ho urgenza di riordinare il cassetto delle calze, cosa che mi richiederà un'ora, durante la quale lei avrà già attaccato ad altre 3 donne l'herpes, la peggiore malattia venerea che il Greenwich Village abbia mai conosciuto. Speriamo davvero che la scienza trovi presto una cura. Arrivederci! In questa puntata, dedicata al vizio della lussuria, la seconda storia di oggi racconta proprio di un appuntamento molto molto particolare. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Le amiche con cui parlo di questa penuria sessuale dicono che è perché abbiamo superato i 60 e agli uomini, quelli della nostra età, interessano solo le donne sui 40. Ma la mia teoria è un'altra. La mia teoria è che sia una cosa legata al lavoro. Credo che agli uomini ultra sessantenni non rimangano energie per il sesso perché impiegano tutte le loro risorse nel tenersi stretto al loro impiego. Sono lì, aggrappati al cornicione, con un manager di medio livello che saltella loro sulle dita e quindi sono troppo stanchi. Un giorno mi sono messa a sfogliare all'indietro il mio schedario mentale e mi sono chiesta che fine avesse fatto Ansley, anche lui della generazione dei baby boom. Ansley era un tizio che avevo frequentato a 22 anni, fino a quando aveva lasciato la sua pulciosa pensioncina a Broadway per tornarsene in Ohio. Era in definitiva un maschilista, ma all'epoca neppure io ero un modello di compostezza. Adesso, giunti alla maturità, saremmo certamente in grado di apprezzarci a vicenda e sarebbe affascinante scoprire che genere di persona è diventato. Allora lo cerco su Google e scopro che è morto 15 anni fa, precipitando con il suo elicottero. Didn't go for that. Qualche anno fa ricevetti dai miei cugini un tardo pomeriggio la notizia che lo zio, il mio ultimo zio in vita, arrivato a 77 anni in perfetta forma, si trovava in un piccolo ospedale di provincia dove gli avevano appena diagnosticato un aneurisma addominale. Spostarsi, gli avevano detto, sarebbe stato rischioso per la sua vita e doveva essere operato immediatamente. La mia idea era che un aneurisma potesse essere operato solo ed esclusivamente da uno specialista. Quel giorno era tardi per trovarne uno e io di medici non ne conoscevo molti. Anzi, a dire il vero, non ne conoscevo nemmeno uno. Anzi, uno sì, Frank. Ci eravamo conosciuti decenni prima, quando lui si era appena laureato in medicina e io muovevo i primi passi nel mondo degli adulti e non me lo filavo perché ai miei occhi era un ragazzino. Molti anni dopo, quando lui aveva ottenuto il genere di successo che comprende un'auto con autista e non solo per andare all'aeroporto, eravamo usciti a cena un paio di volte, ma per una ragione o per l'altra non si era mai approdati a nulla. Quel giorno chiamai Frank. «Dammi 5 minuti», mi disse. 3 ore dopo, io e i miei familiari eravamo in un grande ospedale di New York con uno specialista di altissimo livello che aveva riorganizzato la sua agenda per poter operare mio zio il giorno dopo. Poco tempo dopo mandai un'email a Frank dicendogli che non aveva idea di come fosse riuscito a coinvolgere il primario del reparto, ma che io e la mia famiglia gli eravamo estremamente grati. Frank mi rispose al volo con una riga che diceva così: «Una telefonata al direttore dell'ospedale può fare miracoli». Avete presente un fulmine che vi attraversa il cuore? Ecco, io provai qualcosa del genere. Frank mi era sempre piaciuto, ma a quel punto la mia diventò una libidine da capogiro, come quando non puoi aspettare oltre e lo faresti in piedi lì, ai giardinetti. Io e Frank fissammo un appuntamento per uscire a cena. Frank venne a prendermi in auto e andando verso il ristorante disse all'autista cose tipo: «Tu lo sai da quanto tempo conosco questa donna? L'ho conosciuta che era un ragazzino. Ne sono innamorato da anni». Era una cosa un po' insolita, perché in passato quel genere di discorsi dolci erano stati rivolti direttamente a me, ma in effetti nessuno degli uomini che avevo frequentato aveva avuto un autista. Mangiai poco quella sera, prevedendo una nottata di grandi attività, cosa che, visto il discorso all'autista e il breve ma intenso scambio di effusioni sul marciapiede prima di entrare nel ristorante, consideravo cosa fatta. A fine serata, quando Frank mi accompagnò nell'atrio del palazzo, gli dissi: «Ti va di salire?» «Oddio, Joyce», mi rispose, «mi andrebbe come, ma sono troppo stanco». I'm tired. One of those days I was coming back home and I had the desire to hold you in my arms. So I changed my direction and I knew I'd reach you sooner, but you were halfway between life and dying. That's why I'm saying I'm tired, I'm tired, I'm tired, and I can't help myself. I'm tired, I'm tired, tired, and I can't help myself. Please, Miss So-and-so, look out your window. Try to find some love if there's some in this world. You don't move away from things, they'll soon come back to you. If you don't live your life, we'll be left living you. That's what I'm saying. I'm tired. Si intitola Sex in the 60s, Sesso nei 60, il pezzo scritto da Joyce Vadre per il New York Times all'interno della sua rubrica che si intitola I was misinformed, cioè ero male informata. Quello che aveva, la storia che avevamo appena raccontato era la sua. Ora sentiamo Le strade in diretta e torniamo tra pochissimo per parlare invece di relazioni di lungo corso, e lo facciamo con il nostro esperto di sessuologia. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Ormai è un po' un vizio il nostro, devo dire, un vizio nel vizio. Quando parliamo di lussuria vogliamo saperne qualcosa di più, sentiamo sempre il nostro ormai amico, esperto di riferimento, è docente di clinica delle parafilie e della devianza alla Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Aquila ed è presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma ed è Fabrizio Quattrini. Pronto? Ciao Fabrizio, buongiorno. Sì, ciao Matteo, buongiorno. Grazie innanzitutto perché so che c'è un paziente in attesa, quindi insomma facciamo veramente in fretta, la diretta incombe. Oggi parliamo di coppie di lungo corso. Fabrizio, innanzitutto, quando possiamo definirla di lungo corso una coppia? Dopo i 5, i 10, i 20 anni? Ma in realtà una coppia di lungo corso è sicuramente una coppia anche dopo 3 anni, verrebbe da dire oggi come oggi. Wow. Comunque così sono poco. Coppie, sì, perché comunque oggi le coppie nascono e finiscono molto presto, cioè a volte anche gli stessi matrimoni, no? Vengono consumati nel giro di pochissimi mesi, cioè nel senso che la coppia crede di stare bene insieme e poi si sposa e magari dopo qualche mese divorzia. Quindi in realtà dopo 3-4 anni è sicuramente una coppia che inizia a consolidare quello che è il rapporto. Cioè che entra in una fase nuova, che è quella, esatto, che in teoria dovrebbe portarti dell'amore, giusto? Giusto sottolinearlo, perché invece da un punto di vista fisico e sessuale è un'altra fase ancora, sono diverse le fasi? Diciamo che all'inizio la fase quella più importante, che a volte inganna, è quella dell'innamoramento, che uno fraintende, no? Pensa di essere innamorato e quindi di vivere l'esperienza dell'amore, ma in realtà c'è grande infatuazione, grande desiderio di vivere quell'esperienza. Dopo un periodo appunto anche di 3-4 anni inizia un processo importante, quello del consolidamento, che si può definire amore e che crea una situazione appunto diversa, una nuova fase, come dicevi tu, rispetto a quella coppia, sicuramente. Quindi insomma, immagino che sostanzialmente i pazienti o le coppie di pazienti di lungo corso che vengono da te e ti chiedono un consiglio, il problema che hanno è quello dell'abitudine, giusto? Cioè della routine sessuale, del fatto che si entra in una dinamica che è sempre uguale, con gli stessi orari, le stesse pratiche, dico bene? Allora, assolutamente vero, nel senso che la maggior parte delle persone, anche quando vengono con un problema tipicamente sessuologico, no? Mi viene in mente, quindi, che accusano uno dei due o entrambi una problematica sessuale, alla base c'è sempre una dinamica relazionale confusa o comunque in conflitto, e questo è portato spesso appunto dalla routine e dalla monotonia anche dello stare insieme da tanto tempo, appunto. Ma Fabrizio, ci sono dei trucchi, quindi, cioè tu dai dei piccoli consigli tipo ma prova a spostare qua, prova a mettere questo, cambiate orario, cambiate luogo? Guarda, ti dico una cosa, a volte mi diverto perché sì, ci sono dei trucchetti, ma ci sono dei trucchetti per far riprendere un po' quella fase di innamoramento che sembra essere ormai lontana, no? Okay. Cioè il fatto a volte, ad esempio, anche di riprendere in mano elementi così semplici come il baciarsi e scoprire che il bacio, quello alla francese, quello lungo, quello profondo, è stato dimenticato nel tempo, anche dando degli esempi, cioè degli esercizi non semplici come quello di dedicarsi, no, a 10 minuti di bacio profondo, quasi con il timer, permette a quella coppia sì di ritrovare l'elemento appunto di intimità, ma nello stesso tempo anche la possibilità di riscoprire il piacere di stare insieme. Guarda, c'è Laura Faggini di là dal vetro che applaude, quindi evidentemente questa è una cosa a cui nemmeno io avevo pensato, e mentre lo dicevi pensavo a un certo punto ci si smette di baciare proprio. Assolutamente, è una delle prime cose che salta, l'abbraccio e il bacio, che non voglio dire che non c'è il contatto, però a volte nella routine c'è sempre un andare quasi nella meccanica della risposta sessuale e non in quel trovarsi, no? Rispetto al desiderio anche di sentire, di annusarsi, di scoprire. Io a volte lavoro molto sulla parte dei sensi, dei 5 sensi, perché sono anche quelli i primi a scomparire all'interno di una routine, di meccanica appunto della coppia. Certo, come se il sesso fosse solo l'atto in sé e tutto quello che c'è intorno, esatto, invece si asciughi perché, boh, ci abbiamo tempo, non ci abbiamo modo. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie mille. Grazie Fabrizio Quattrini, non facciamo attendere troppo il tuo paziente, ma ovviamente ci sentiamo appena abbiamo qualcosa da chiederti. Grazie ancora. Grazie a te, buona giornata. Buona giornata. Ciao, ciao. Ciao. Thank you. Quando noi facciamo un percorso molto lungo e molto complesso, quando capiamo, come capiamo che quel percorso sta terminando? La storia di Giorgio Bazzega, la storia seriale che Mauro Pescio ha raccolto e che vi stiamo raccontando da qualche settimana e che purtroppo finisce questo venerdì, questa sarà l'ultima settimana in cui racconteremo questa storia di ira profondissima, appunto la storia di Giorgio Bazzega, figlio di Sergio Bazzega, ucciso dalle Brigate Rosse negli anni 70, è una storia di un percorso molto lungo, molto complesso, ce l'ha raccontato approfonditamente lo stesso Giorgio, passa dall'ira, si infila nella vendetta e poi attraverso un percorso di incontro, di colloqui personali tra Giorgio e altre vittime e altri moderatori che hanno partecipato a quel periodo e addirittura l'incontro con degli ex brigatisti, riesce lentamente a uscire da questo stato di rabbia profondissima, di ira molto molto radicata. Ma quando si capisce che un percorso è finito, quando succede una cosa come questo, quando in questo caso Giorgio Bazzega incontra Renato Curcio. Quando hai incontrato Curcio? Sì. Sapeva chi eri? Certo che l'ha capito che io. Curcio conosceva mio padre. L'ha capito? Certo che l'ha capito, appena mi ha avuto davanti, non ha capito che ero Giorgio Paolo Bazzega, ma ha capito che ero figlio di uno di quella. Ma dal modo, ma l'ho visto proprio lo sguardo quando gli sono arrivato davanti. Dopo che avevo iniziato il mio percorso, ho incontrato Renato Curcio. Era venuto a parlare in un centro sociale vicino a casa mia. E sono andato per mettermi alla prova. Quando sono arrivato ero agitatissimo. In quel momento avevo già iniziato il percorso ed ero già a buon punto, però sentivo il cuore che mi esplodeva nel petto e non riuscivo a respirare dalla tensione. Quando ce l'ho avuto davanti e ha capito chi ero, ha iniziato a tremare, a balbettare. Si è spaventato tantissimo. Aveva capito benissimo e aveva paura. Aveva paura folle e ti dico anche che non è solo lui, perché poi parlando con alcuni ex mi hanno detto che proprio, soprattutto fra quelli più famosi, fra i capi, sono anche quelli che hanno veramente terrore. Mi hanno fatto i nomi di due o tre che ti dico lui perché c'era, gli altri non te li posso nominare perché cioè, non vorrei mai, sai. Quelli hanno proprio il terrore che il figlio di qualcuno che hanno ammazzato qualcosa si vada a vendicare. Ho visto un uomo anziano, debole, impaurito. Io mi sono avvicinato. Mi ero portato il mio cane, Mia, la mia femmina di Bull Terrier, al fianco, per sembrare più duro di quello che fossi. Ma sia io, sia lei, il mio cane, eravamo agitatissimi. Ho respirato a lungo, poi gli sono andato incontro. Gli ho messo una mano sulla spalla e gli ho detto: «Sono venuto qui perché mi dovevi guardare in faccia. Vista la tua reazione, ho già finito». E me ne sono andato. Quando me ne sono andato, il primo pensiero che ho avuto è stato di rabbia. Mi chiedevo come fosse possibile che un uomo così terrorizzato avesse fatto tutto quello che aveva fatto. Ma subito dopo, per fortuna, ho pensato che invece di dargli due calci, come mi ero preparato a fare da una vita, nonostante nel suo intervento lui non avesse sprecato nemmeno una parola per le vittime che quella violenza aveva generato, e nonostante sapessi benissimo che non si era mai dichiarato pentito di quello che aveva fatto, io gli avevo messo una mano sulla spalla e lo avevo tranquillizzato. Lì mi sono sentito guarito. Mi sono sentito libero, proprio libero. La mia dipendenza dall'odio stava svanendo. Tornando a casa a piedi, col mio cane di fianco, mi sono reso conto che non ero più dipendente dall'odio. Ho anche chiamato mia mamma e abbiamo iniziato a piangere di gioia. E ancora grazie davvero a Giorgio Bazzega che ha raccontato a Mauro Pescio tutta la sua storia. Vi ricordo che non è ancora finita, ci sono ancora un paio di puntate. Venerdì probabilmente lo sentiremo, Giorgio al telefono e lo saluteremo e lo ringrazieremo dal vivo anche per tutti gli ascoltatori, per tutti quelli che ci hanno scritto e che stanno apprezzando la sua storia. La ritrovate, vi ricordo, in podcast, ritrovate tutto in podcast, ritrovate Linee d'Ombra sul nostro sito o sulla app che usate, qualunque essa sia, per scaricarvi il vostro podcast, ma ritrovate anche solo gli episodi della storia seriale a blocchetti di 5 di volta in volta, in modo che se volete potete ritrovarvela tutta quanta. Ringrazio Paolo Corleoni, ringrazio Laura Faggin e noi ovviamente torniamo domani puntualissime alle 15 per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!